Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Fabio Genovesi è uno scrittore che mi piace molto. Avevo già parlato di lui nel Cacciatore di Libri con Versilia Rock City ed Esche Vive. Ora è in libreria il suo nuovo romanzo che si intitola Chi manda le onde, pubblicato da Mondadori. Quando ho letto questo libro, devo dire, mi sono completamente bevuta i primi tre quarti, cioè proprio immersa totalmente in questa storia, e mi sono soprattutto innamorata di uno dei personaggi di questo romanzo, perché, lo diciamo subito, i romanzi di Genovesi in genere sono romanzi corali, ci sono tanti personaggi, non c'è un solo protagonista e ci sono anche diversi punti di vista, diversi io narranti. Allora diamo un pochino di coordinate, Fabio. Partiamo dal personaggio che mi ha affascinato di più, che è Luna, questa bambina, 11 anni, è una bambina albina. Io ho trovato in questa bambina una grandissima tenerezza, anche una saggezza, quasi fosse più grande, insomma, della sua età, e soprattutto l'hai resa un po' protagonista di tante vicende anche dolorose e difficili da affrontare per una bambina. Insomma, tu come te la sei immaginata questa Luna? Me la sono immaginata un giorno mentre camminavo sul mare. Mi capita spesso, io vivo a 2 minuti dal mare a piedi, di fare delle lunghe passeggiate. E un giorno ho esagerato, sono stato troppo al sole, era estate e mi sono scottato. E i giorni dopo, in cui era meglio non espormi alla luce del sole, mi hanno fatto pensare a chi in realtà non può farlo mai. E mi è venuta in mente una ragazzina albina, però innamorata del mare come lo sono io e che vive al mare, e che però semplicemente non ci sta al fatto di dover evitare il sole. Allora si copre, si mette questa felpa col cappuccio, pur di andare insomma al mare, anche perché ha una passione questa bambina, quella di passeggiare sulla riva del mare, sulla sabbia, e raccogliere una serie di oggetti. Sì, perché lei ovviamente, non potendo guardare lontano, gli albini hanno anche dei problemi di vista forti, quindi spesso dovendo abbassare gli occhi a terra, si ritrova a far caso a tutte le cose strane che il mare, soprattutto dopo le mareggiate, porta sulla riva, ma in realtà ce le porta tutti i giorni, perché sai, finché sul mare trovi granchi, conchiglie, insomma ci arrivi, ma spesso trovi vecchie penne, settimane enigmistiche tutte sciupate, ciabatte. Chissà che storie ci sono dietro, chissà da dove arrivano. Sì, perché vederle ti fa strano, bibite con scritte giapponesi, dici come sono arrivate fin qua? In realtà, se ci pensi, il mare è la regola, la terraferma è l'eccezione, il mare è il mondo, la terraferma sono piccole concessioni che il mare fa al posto, il posto dove viviamo noi, che con grande presunzione diciamo New York è il centro del mondo, Londra è il centro, no, il centro del mondo è il mare. Il mare. E arrivano queste cose sulle spiagge, tutte queste cose che dai piccole parti di terraferma viaggiano in tutti questi enormi mari e arrivano fino a altre parti secche della terra. Ritorniamo alla storia del romanzo. C'è questa bambina albina che ha un compagno di scuola che si chiama Zot, un bambino assolutamente, a volte a tratti sembra surreale perché è un bambino che viene da Chernobyl, ma parla un italiano così corretto, così antico, così aulico che veramente sembra un personaggio un po' fuori dalle righe. C'è la mamma di Luna, Serena, una donna insomma che ha sofferto nella vita e che purtroppo verrà messa a dura prova in questo romanzo. Limitiamoci per ora a questi personaggi. Allora, Serena è una donna che subisce una grande perdita, un grande dolore nella sua vita. Ho sentito un'intervista in cui tu dicevi: mi piace raccontare come le persone reagiscono alle carezze e ai calci della vita. Sì, credo che il nostro problema sia che ognuno di noi crede fortemente di soffrire in un modo unico e irripetibile nel mondo, cioè che il dolore che io provo lo sto provando solo io, nessun altro ha provato questo dolore, questa mia condizione, e quelli che soffrono gli altri soffrono diversamente, o forse un po' meno anche di me. E ognuno soffre per un senso di unicità dolorosa che in realtà è una banalità totale. Spero che il lettore, leggendo certe situazioni, ci si ritrovi e capisca che ci siamo passati un po' tutti. Io mi ci sono ritrovata, nel senso, non avendo fortunatamente subito la perdita di Serena, però il suo modo di reagire a una situazione così così dolorosa, io mi ci sono completamente immedesimata. Insomma, il dolore in quel momento è assoluto, indipendentemente dalla causa e anche la sua reazione. Lei dimentica quasi di avere Luna come figlia, si dimentica anche della figlia per quasi un anno della sua vita. Sì, perché poi il dolore, come si dice nel romanzo, è come queste onde altissime che ti prendono e ti portano giù, e quando pensi di non farcela più, l'onda passa, ti ritrovi a respirare un attimo e ce n'è già un'altra, no? È una cosa che funziona a onde spesso. E io volevo raccontare questa cosa, la scommessa che ho fatto all'inizio, i 4 anni fa, quando ho cominciato a scriverlo. Ho detto a Giulia, che poi mi segue quei libri, Giulia, e la tua editor, diciamo, editor, insieme, Giulia Echino. Giulia Echino e Marilena Rossi, che mi seguono. E ho detto: ragazzi, io voglio scrivere un libro che abbia a che fare con i grandi dolori della vita e che faccia ridere. È vero, perché nel tuo romanzo si sorride, a volte si ride, poi ci si commuove e a volte proprio si soffre. Io credo che sia quello. A me non interessano i libri che fanno solo ridere, perché sono un po' sciocchi per me. Quelli che fanno solo piangere li trovo falsi. La vita non ti fa, non è possibile piangere e basta. Secondo me la vita ti fa piangere e ti fa ridere. Quando moriremo, ognuno di noi si ricorderà, secondo me, per un attimo prima di sparire, dei momenti in cui ha riso e ha pianto. Sono quelli i momenti importanti, sono i momenti che a me piace raccontare. Una caratteristica della scrittura di Fabio Genovesi è l'ironia, per esempio. Qui ce n'è meno, ce n'era tanta per esempio in Versilia Rock City. In questo romanzo, secondo te, chi è il personaggio che rappresenta di più la tua vena ironica, il tuo sguardo ironico sulla realtà? Forse Ferro, il nonno, l'ex bagnino di Forte dei Marmi in pensione, che ha vissuto una vita in questo paese convinto di averlo tirato su lui, e si ritrova adesso a vivere chiuso in casa avendo un fucile a ogni finestra per scacciare eventuali attacchi di miliardari russi che vogliono comprargli la casa. Perché, lo ricordiamo, il romanzo è ambientato a Forte dei Marmi, che ormai è, diciamo, in mano completamente ai turisti russi. Ai miliardari russi. Lui non ci sta a vendere la sua casa, e per la beffa del destino, proprio questo ragazzino Zot, venuto da Chernobyl, decisamente non miliardario ma russo, sì, se lo ritrova in casa a doverlo tenere come un nipote adottivo che fa di tutto per odiare, ma Zotto non lo puoi odiare perché è così disarmantemente buono che poi alla fine gli va bene, e lui cerca sempre di difendersi con l'arma dell'ironia. È una cosa molto toscana. Per un po' di tempo noi toscani abbiamo sofferto un'immagine di toscani, sempre il contadino arrapato, l'olio buono, quelle cose un po'. In realtà, secondo me, la caratteristica toscana è quella di ridere delle cose che più ti fanno soffrire. A un funerale in Toscana, se vedi qualcuno che ride, è il miglior amico del morto, la persona che soffre di più. È un nostro modo di fare battute sulle cose più serie, e Ferro tenta di fare così. È aspro, ironico, cattivo, ma in realtà vuole tantissimo bene a questo ragazzino, che lo fa diventare meno solo, insomma. È bellissimo, perché questo romanzo è anche un incontro di solitudini. Ci sono molti personaggi soli. Alla fine Ferro è un uomo solo, chiuso in questa casa. Zot è un bambino solo perché viene emarginato dai compagni di scuola. Luna è una bambina albina, quindi le sputano addirittura addosso alcuni compagni di classe. Poi c'è appunto la mamma Serena, che subisce questo grande dolore, quindi a suo modo è sola, non ha neanche un uomo accanto a sé, non ha il padre dei suoi figli accanto a sé. E poi c'è Sandro, che è quest'uomo, stavo per dire ragazzo, in realtà è un quarantenne, che è innamorato di Serena, cerca in qualche modo di farsi notare, e con lui e con i suoi due amici, Rambo e Marino. Tu hai descritto, secondo me, perfettamente la vita della provincia, a volte anche un po' soffocante, e che a volte non dà speranze alle persone. Sì, perché unire la vita di provincia alla generazione dei quarantenni, alla quale ormai appartengo, era secondo me un mix letale e però grandemente narrativo, nel senso che a una delle zone che offre in teoria meno prospettive si unisce la generazione che meno prospettive ha. E infatti mi piaceva raccontare queste persone che, invece però che arrendersi, combattono non per un futuro, non ci pensano, ma per un presente, che è già molto ai tempi nostri. Quindi oggi voglio fare delle cose, quindi vanno a cercare le monetine sulla spiaggia con i metal detector, vanno a rubare i pinoli e le pigne, perché è vietato raccogliere i pinoli e le pigne per venderli, vanno a cercare i funghi, che sono tutti lavori assurdi, ma in un periodo come il nostro, in cui tutte le vie tracciate dalle generazioni precedenti non esistono più, siamo come davanti a una giungla senza sentieri. Ci armiamo di macete e cominciamo a aprirci una strada nuova. Fabio Genovesi, come scrittore, mi dà l'idea, poi umanamente, di una persona che osserva molto il genere umano dal punto di vista proprio come si muovono le persone, come ragionano. Tu chiacchieri molto con le persone, mi dai l'idea di una persona che magari va al bar, va all'edicola e si mette a chiacchierare con lo sconosciuto per capire che cos'è la sua vita, magari mi sbaglio, eh? No, purtroppo hai ragione, nel senso ecco, quindi che... ci ho azzeccato. Sì, sì, io quando mi dicono ho il tuo hobby preferito, la mia passione sono le persone, a me sono morbosamente interessata agli altri e così i miei personaggi nascono dal non poter conoscere tutte le persone del mondo. Per compensare il fatto che non saprò davvero mai la loro storia, me ne creo una inventata. Serena è nata così. Di sabato sera cenavo da solo in questo ristorante, ti tocca il cameriere che dice: la signora che ora arriva, non c'è nessuna signora. Sono da solo. Sono da solo, ma non sono triste, aggiungi quando sei triste sempre. E davanti a me, all'altro tavolo, c'era una bella donna che mangiava da sola anche lei, ma non triste, evidentemente soddisfatta della sua cena da sola. Un uomo sano di mente sarebbe andato a parlarci. Io invece mi sono preso un sacco di appunti su come mai, secondo me, lei era lì da sola a mangiare in questa città e da lì è nato il personaggio di Serena. C'è sempre una grande umanità nei personaggi che tu descrivi e fai muovere nei tuoi romanzi, si percepisce proprio da come scrivi e da come ne parli. In questo romanzo tu usi anche diversi registri narrativi, perché la bambina Luna parla in prima persona, quindi sentiamo la sua vocina anche da bambina. Poi c'è Serena, la mamma, alla quale il narratore ideale si rivolge col tu, quindi insomma la seconda persona, tu Serena stai facendo questo, questo e quest'altro, e poi la terza persona per descrivere insomma gli altri personaggi e le altre vicende. Perché questa ricchezza di punti di vista? Uso la prima persona in genere per il personaggio, per la persona che io sento di più nella testa. Quando sento la voce parto e non so quello che scrivo. Di solito non so mai, non solo come va a finire il libro, anche perché nessun lettore leggerebbe un libro sapendo come va a finire, figurati io allora perché lo devo scrivere sapendo come va a finire, ma annoierei tantissimo. Quindi io so sempre le 3-4 pagine dopo e non so cosa farà un personaggio, perché così diventa una persona, altrimenti è un tuo burattino. E allora scrivo quello che più sento, proprio la sua voce, così la sento, la scrivo in prima, in terza altri, in seconda tendo a raccontare sempre il la persona, la donna, la ragazza donna in questo caso, in questo caso Serena, perché la cosa che mi affascina di più è che molto spesso nelle donne succede questa cosa, cioè le donne, quelle più interessanti, più intelligenti, più belle proprio nel modo di essere, più ricche di cose da dare, sono quelle che si limitano di più perché vivono la vita come sempre accusandosi da sole, giudicandosi da sole, e si limitano da sole come vivendo allo specchio. E allora la voce dello specchio secondo me è la seconda persona, dove dici tu sei così, tu sei cos'ha, non hai fatto questo, non hai fatto quello, avresti dovuto, e allora queste persone meravigliose che si limitano guardandosi allo specchio, io le racconto in seconda persona perché mi sembra la voce più adeguata. Ecco. Il romanzo dunque, che veramente vi consiglio col cuore, si intitola Chi manda le onde, l'ha scritto Fabio Genovesi, che ringrazio, ed è pubblicato da Mondadori. Questa è la colonna sonora del film Suite francese, che è arrivato proprio da poco nelle sale italiane, e naturalmente appena arriva nelle sale un film tratto da un libro si ritorna a parlare del libro. Il romanzo è appunto Suite francese di Irene Nemirovsky, di cui tra l'altro avevamo parlato la scorsa settimana nell'appuntamento pomeridiano del Sabato del Villaggio. Allora, nell'idea della scrittrice, Suite francese avrebbe dovuto essere composto da 5 parti. In realtà la Nemirovsky riuscì a scriverne solo 2. La prima era ambientata nella Parigi degli anni 40, appena bombardata, e segue un po' le vicende di alcune persone che abbandonano appunto Parigi e cercano rifugio nel sud della Francia. La seconda parte, che è poi il nucleo fondante di Suite francese, è ambientato appunto nella campagna francese durante l'occupazione tedesca. La protagonista è una donna, Lucille, che è sposata ad un uomo che in realtà non ama, che sta combattendo in guerra, e durante tutto ciò lei si innamora di un ufficiale tedesco. Il libro è stato pubblicato 60 anni dopo la morte di Irene Nemirovsky, e questo perché lei fu arrestata nel luglio del 42, deportata, e morì poi ad Auschwitz di tifo, era infatti ebrea. La Nemirovsky però lasciò il manoscritto di Suite francese chiuso in una valigia che venne affidata alla figlia, e la figlia per anni ha custodito questa valigia. Qualche anno fa, nel 2009, avevo incontrato ad un festival letterario Denise Epstein, la figlia appunto di René Nemirovsky, che adesso ormai è morta, e così mi aveva raccontato della storia di Suite francese. Sono des souvenirs très très précis d'un petit déjeuner. Beh, un ricordo preciso di una prima colazione che doveva essere una prima colazione serena come tutte le altre, e invece come invitati speciali abbiamo avuto i gendarmi francesi che sono venuti ad arrestare mia madre. Dernier souvenir du dernier matin. Lei all'epoca aveva 13 anni. Che cosa ricorda di sua madre scrittrice? En tant qu'écrivain, bien sûr, j'ai des souvenirs, mais des souvenirs. I miei ricordi sono ricordi di atteggiamenti fisici di mia madre, perché scriveva sempre, scriveva dappertutto. Per esempio, anche quando ci portava a spasso nei giardini pubblici, veniva con noi e aveva dietro questo famoso suo grande quaderno, grande taccuino, sul quale scriveva sempre. Quand elle amenait ses enfants se promener. Avec le cahier sous le bras. Nel momento in cui fu portata via, sua madre affidò a lei e a sua sorella Elisabeth una valigia, la famosa valigia marrone. Che cosa c'era dentro? Effectivement, c'est mon père qui m'a confié cette valise. In effetti non è stata mia madre ad affidarmi questa valigia, bensì mio padre, che è stato arrestato tre mesi dopo mia madre. E mio padre mi ha affidato contemporaneamente mia sorella, che aveva 5 anni, e questa valigia all'interno della quale c'era questo famoso quaderno di mia madre. E io ero una bambina obbediente e ho vegliato su questa valigia. E j'ai obéi à l'époque. J'étais obéissante à l'époque. Dopo quanto tempo ha aperto questa valigia e ha letto i diari di sua madre? J'ose à peine le dire. Aprire l'ho aperta, ma non ho mai aperto il quaderno. Ho aspettato quasi 60 anni per decidere di decifrare e ricopiare quello che c'era nel quaderno. Ouvrir, je l'ai ouvert, mais sans le lire. Perché ha aspettato così tanto tempo? C'était très douloureux. Il y avait la douleur. C'erano due ragioni. La prima è che era una cosa molto dolorosa, e soprattutto la seconda, soprattutto perché io non pensavo che ci fosse un romanzo, pensavamo che fosse un diario intimo. On pensait que c'était un journal intime. Quando ha iniziato a leggere questo diario, che cosa ha provato e perché poi ha deciso di trascriverlo? Parce que je voulais. L'idea era di mettere questo manoscritto al riparo, cioè di depositarlo, come poi hanno fatto, nel fondo degli editori francesi, che si chiama IMEC, Istituto della Memoria Editoria Contemporanea. Però non sopportava l'idea di separarsene senza prima aver letto quello che c'era dentro. Puisque c'était ses dernières paroles. Poi questo è diventato un libro ed è stato pubblicato. Che sensazioni ha avuto, che cosa ha provato quando ha visto, insomma, che il pubblico poteva leggere questo diario? Après, évidemment, quand j'ai vu ma mère revivre. Ero molto contenta che mia madre rivivesse e che trovasse di nuovo un suo pubblico nel mondo intero. C'era anche molta sorpresa, dello stupore. Era come se adesso potessi calmarmi finalmente, trovare pace, perché c'era stata questa vittoria sull'oblio. E un sentiment de victoire sur l'oubli. Lei dice spesso che trascrivere questo diario è stato quasi una sorta di terapia per lei. Perché? Come l'ha vissuta? Pas tout de suite. Quand j'ai commencé à le retranscrire. All'inizio, quando ho capito che non era un diario ma che era un romanzo, mi divertivo quasi, perché in Suite francese riconoscevo ciascuno dei personaggi. L'effetto terapeutico, per così dire, è venuto molto più tardi. La terapia è venuta bien après. Una cosa che molti di noi, insomma, si chiedono: lei per anni ha tenuto questa valigia. Come ha fatto, insomma, anche a proteggerla, a spostarla da un luogo all'altro? Immagino che, insomma, saranno stati anche anni difficili. Je l'ai toujours tirée parce qu'elle est très lourde. La valigia era molto pesante e io ero una bambina, quindi io non la sollevavo, la trascinavo e me la sono trascinata dietro in tutti i posti in cui ci siamo nascoste in quegli anni, mia sorella e io. Nelle cantine, nei posti più improbabili. E siccome per un certo periodo siamo state nascoste in un collegio di suore, e anche lì avevamo detto che nella valigia c'erano degli effetti personali, e la valigia era stata sistemata vicino all'uscita di emergenza, perché nel caso in cui la Gestapo ci avesse trovate, noi dovevamo scappare da lì. E infatti è quello che è successo. Quando abbiamo saputo che la Gestapo stava arrivando, siamo scappate da lì portandoci dietro la valigia. Je gardais la valise. E questa era Denise Epstein, figlia di Rene Nemirovsky, che appunto alcuni anni fa ci raccontava come era nato Suite Francese. Prima di chiudere vi segnalo che il prossimo fine settimana, cioè da venerdì 27 a domenica 29 marzo, a Milano ci sarà la prima edizione di Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente. Quindi ci saranno come sempre presentazioni, dibattiti, reading, tutto questo ai Frigoriferi Milanesi a Milano naturalmente. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Filippo Aureggi. Vi ricordo che trovate sempre il podcast del Cacciatore di Libri, potete scaricare la puntata su radio24.it e potete seguirmi su Twitter come Ale Teddina. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.